Sono in collegamento con compagni e compagni di Montreal per un approfondimento sulle rivolte nel Quebec che sono ormai ben più ampie di un movimento studentesco. Se non ne siete al corrente, e purtroppo molta gente non lo è, si tratta di una delle più grandi rivolte popolari in corso, paragonabili a quelle del Cile e della Colombia, con tanto di repressione poliziesca, incluso pestaggi e arresti di centinaia di persone e vari di nuove leggi di emergenza ancora più repressive di quelle istituite dal 2001 con la scusa del terrorismo, almeno in Canada come anche negli Stati Uniti. Si tratta di decine di migliaia di persone che protestano quasi ogni giorno da mesi, tra cui per la maggior parte dalle università, cioè include per la maggior parte studenti, studentesse, ma anche membri della facoltà di varie università e anche dei sindacati universitari. Ma ci sono anche disoccupati e disoccupate, membri di varie sigle sindacali, e tutti si riversano sulle piazze e sulle strade un po' dovunque nel Quebec. Quello che ha innescato lo scoppio della protesta generale, specialmente da metà febbraio di quest'anno in poi, è l'aumento della retta universitaria di ben più del 75%. Ma le ragioni delle proteste sono molto più profonde. Infatti ci furono già manifestazioni varie a partire dai tagli e dalle privatizzazioni dei primi anni 2000, quindi nel 2004 già cominciavano delle proteste culminate e diventate ancora più forti nel 2005, quindi sono già da anni che ci sono proteste nel Quebec. Ma il governo Charest non molla e continua con le sue politiche impopolari e le manifestazioni continuano. Ora che le ultime trattative sono andate a fumo, grazie all'ottusità totale del governo Charest stesso. Ho chiesto dunque alle compagne e ai compagni di Montréal di spiegare il contesto sociale di queste vicende, di descrivere come questo movimento di protesta è emerso e quali sono le sue principali caratteristiche, e anche di valutare i contenuti delle proteste stesse e del movimento stesso. Ringrazio tantissimo Davide, Sandra e Lucio che si sono prestati alla traduzione e anche ovviamente Marianne e Bruno, che hanno partecipato a chiarire e approfondire questa questione delle proteste del Quebec. Quindi cominciamo con Marianne, che ci spiegherà un po', o ci farà un po' il quadro della situazione. Grazie. Puis c'est beaucoup plus quand le patriarcat ou le paternalisme des gouvernements qui nous disent comment il faut penser. Maintenant, depuis que la lutte s'est déjà élargie à plus que contre la hausse ou contre le 1625 $ de hausse, puis que c'est beaucoup plus un ras-le-bol de la population qu'une mobilisation tous les jours des gens d'un quartier, j'ai l'impression de tous s'unir, ces gens-là qui n'ont pas des aussi bonnes conditions sociales, t'sais. E, sì, insomma, la questione dell'aumento delle tasse di 1625 dollari è stato in realtà un semplice espediente per poi ecco, coinvolgere tutta la popolazione quebecoise contro per fare una critica più ampia, che non si limiti soltanto all'aumento delle tasse. J'aurais tendance à dire que, ben, il y a une question purement bureaucratique au niveau de la hausse affecte uniquement les gens de la province, mais on voit une solidarité avec les autres provinces également, même si les gens ont essayé. Però in un qualche modo Bruno ha sottolineato il fatto che ci sono una serie di elementi che permettono di territorializzare al Quebec la questione dell'aumento delle tasse, come per esempio il fatto che il Canada francofono, ovvero il Quebec, paga meno tasse rispetto al Canada anglofono, per cui gli studenti quebecois vengono accusati di essere des enfants gâtés, cioè dei bambini viziati. E, Ci sono quindi un paio di questi punti che un paio di punti di questo tipo che in un qualche modo danno adito a una territorializzazione limitata al Quebec. Ma insomma si sottolinea ancora una volta che la questione è più ampia e stiamo combattendo il mostro neoliberale. Le gouvernement essaie d'évacuer. Sì, il problema dell'indebitamento è presente anche qui in Quebec. Il governo ha cercato sistematicamente di allontanare lo spettro dell'indebitamento, cercando di argomentare contro, dicendo che in realtà qui si pagano meno tasse che da altre parti, ma che comunque rimane una questione principale, una delle rivendicazioni principali del movimento studentesco. C'est une guerre de mots, en fait, de vocabulaire à imposer, au sens où, justement, sur la dette, le gouvernement essaie de faire passer ça comme un investissement dans sa carrière. È una guerra di parole, il governo cerca di far passare l'indebitamento come un investimento nella propria carriera. Guerre de mots qui se continue à toutes les étapes en fait de la guerre actuelle. Je pense que ça a commencé par. Guerra di parole che si riproduce e si ripropone ad ogni età, ad ogni tappa del movimento, che ricordiamo, il movimento siamo quasi al 110° giorno. È una guerra di parole che si fa a livello materiale, sulle condizioni materiali degli studenti, quindi sul denaro da spendere o meno, sul riconoscimento stesso del movimento e sul paternalismo che il governo adotta come strategia per criminalizzare il movimento, per metterlo a tacere. Il y a eu aussi un gros recours aux tribunaux pendant cette grève-là, puis je dirais plus particulièrement. Cosa che sottolinea Marianne. A partire dal mese di aprile la gente ha iniziato a ricorrere ai tribunali, quindi al sistema giudiziario, per forzare un ritorno in classe. La cosa bella è che la gente se n'è fregata di queste sanzioni che i vari tribunali emettevano. Beh, dans le fond, c'est des étudiants qui pouvaient aller déposer une demande devant la cour pour. In pratica gli studenti potevano denunciare ai tribunali la condizione del proprio corso per forzare i professori e gli studenti a riaprire le classi e a ritornare in classe. Ed era in un qualche modo l'utilizzazione del sistema giuridico per depoliticizzare il movimento e forzare un ritorno in classe. Si lo compone la retorica del governo. De transformer la réclamation du mouvement étudiant, du droit à l'éducation. È qui che la retorica del governo si vede maggiormente, una retorica che anziché parlare di educazione come un diritto collettivo, ha sempre cercato di incentrare la sua retorica sul diritto individuale all'educazione, per cui singoli individui che si vedevano impediti ad entrare in classe a causa dello sciopero, che ricorrevano per cui ai tribunali per il proprio individuale diritto all'educazione, non in maniera collettiva. Beh, dans le fond, il y a la classe, qui est la coalition large d'une association étudiante qui existait déjà, qui est plus comme sur des bancs. C'è la classe. Che è la coalizione allargata delle associazioni sindacali studentesche, che fa un discorso più radicale, più combattivo e di lotta sociale, di rivendicazione sociale. Parallelamente a ça, il y a aussi la FERC e la FEC, qui sont des fédérations étudiantes qui eux ont beaucoup plus une approche syndicaliste corporatiste. De lobbying, de concertation avec le pouvoir. Poi ci sono altre due associazioni, la FEC e come si chiama? La FEC. Ouais. Che loro invece queste due altre associazioni invece sono più hanno un'organizzazione più sindacale quindi un'organizzazione verticistica, gerarchizzata, la cui strategia è in particolare la negoziazione sindacale, le trattative e operazioni di lobbying varie. Avec la grève en 2005, c'était l'ancêtre de la classe qui avait établi toute la mobilisation de masse. Puis les fédérations étudiantes étaient venues récupérer le momentum pour négocier une entente arabique qui finalement n'était pas à la hauteur de la mobilisation. Nel 2005, proprio queste due ultime associazioni in un qualche modo hanno preso parola nel momento più importante e hanno un po' dominato il momento della negoziazione, mettendo anche fuori la classe, quindi l'organizzazione un po' più radicale, fuori dalle trattative. Quest'anno invece la classe ha costruito l'intero movimento a partire dalla metà febbraio, le altre due associazioni sono arrivate un mese dopo e invece questa volta non sono riuscite a mettere il cappello al movimento, dominando magari le trattative, le negoziazioni con il governo, perché molte associazioni sono fuoriuscite dalle due federazioni studentesche per confluire nella coalizione allargata delle associazioni studentesche, ovvero nella classe, per cui la classe oggi si ritrova molto più forte ed è l'epicentro della mobilizzazione 2012. Quest'anno, Bruno vuole fare un'analisi un po' più personale, lui crede che in realtà le istituzioni studentesche hanno giocato un ruolo importante, ma che quest'anno più che in altre occasioni dei movimenti extraparlamentari, qui solitamente etichettati come anarchici, anche perché lo sono, fortunatamente, questi movimenti in realtà hanno giocato un ruolo, insomma, i movimenti anarchici hanno giocato un ruolo importante, sono presenti nel movimento e hanno giocato un ruolo importante nell'alimentare questo grosso movimento. Depuis un an, on sait qu'il y a des escouades de la police de la ville de Montréal qui ont des missions de surveiller les groupes marginaux et anarchistes à l'œuvre au Québec, plus particulièrement à Montréal. Da un anno c'è un dossier della polizia di Montréal che si chiama Gamma. Le dossier Gamma, che ha come obiettivo di controllare, monitorare gruppi marginali e anarchici della città. La criminalizzazione è basata sulla distinzione, sulla retorica che il governo avanza sin dall'inizio, di distinguere tra i manifestanti buoni e i manifestanti cattivi. Tra i manifestanti cattivi ci sono in particolare gli anarchici, che sono considerati come dei casseurs, che si può tradurre letteralmente come dei scassa tutto. Studenti cattivi sono in particolare gli anarchici e i casseurs, cioè dei vandali, che in realtà non hanno alcun tipo, secondo il governo e la retorica del governo, alcun tipo di retroterra politico, ma sono lì soltanto per rompere vetrine, per distruggere la città, per puro divertimento, un po' come gli ultras, come si vuole criminalizzare anche lo stadio, per esempio, in Italia. Mais finalement, moi, les gens que je connais, que je côtoie, c'est... Invece, Marianna frequenta le mobilizzazioni, le manifestazioni e incontra dei lavoratori, lavoratrici, precari, studenti, studentesse che hanno in realtà voglia di combattere un sistema, che hanno voglia di praticare delle azioni dirette e di quindi garantire la differenza delle tattiche all'interno del movimento. La manière dont et les médias et le gouvernement ont caractérisé la tactique du black. La retorica del governo si è anche basata su una strategia da black bloc, ovvero criminalizzare queste entità black bloc come se fosse un'entità materiale esistente, contornando invece il fatto che fossero degli studenti, della gente che si incontra e che preferisce altro tipo di azioni. Il movimento ha avuto una grande creatività, ci sono state manifestazioni di ogni tipo. Bruno sottolinea la maratona dei baci tra uomini. Maratona dei baci tra uomini. Mais depuis 100 jours, da 100 giorni gli studenti fanno azioni di sabotaggio, di bloccaggio, di picchiettaggio giorno e notte. Il y a des séries d'appels téléphoniques jusqu'à des saccages de bureaux de ministres. Ci sono una serie di pioggia di telefonate agli uffici della ministra. È stata una grande creatività e spontaneità soprattutto tra gli studenti, che in maniera assolutamente autonoma prendevano iniziative e organizzavano ogni sorta di manifestazione, tra cui a UDM il giorno dopo una ennesima ingiunzione da parte di un tribunale per la forzatura del ritorno in classe degli studenti. Spontaneamente sono andati a UDM per compiere delle azioni dirette all'interno dell'università. Università de Montréal, UDEM. La maratona era stata organizzata dal movimento queer e femminista. La cosa più bella è vedere come la parte anglofona e la parte francofona di Montréal sono riusciti ad organizzarsi insieme e a superare le barriere linguistiche che storicamente li dividono. E attraverso uno spontaneismo e attraverso la creatività sono riusciti appunto a superare delle difficoltà di tipo linguistico per organizzarsi insieme. Ce qui est beau, c'est aussi la profondeur des analyses qui dépasse simplement la question des frais, mais comment ça l'applique. La cosa bella è anche il livello di analisi che viene compiuto dagli studenti, un livello molto molto molto elevato, fatto su ogni ambito della società e soprattutto anche rispetto a femministe, queer, comunità culturelle, gli studenti stranieri, giovani famiglie, poveri in generale. Lo sciopero è iniziato a metà febbraio, la prima grande tappa è stata il 22 marzo con la più grande manifestazione del movimento. C'è stato un tentativo di negoziazione subito dopo, che è stato un fallimento. Il governo non ha fatto alcun passo indietro e si è impuntato sul fatto che gli studenti dovessero pagare la propria giusta parte e quindi sul mantenimento dell'aumento delle tasse universitarie. Tutto il mese di aprile è stato dedicato a bloccaggi vari e a una pressione soprattutto economica e concreta. Il governo ha cercato di bypassare le assemblee ricorrendo direttamente ai media mainstreaming. Dopo si arriva ai primi di maggio e in particolare al 4 maggio, giorno in cui il Partito Liberale si è riunito a Victoriaville, che ha in un qualche modo sancito una sorta di svolta della violenza, una svolta della repressione, perché a Victoriaville ci sono stati i primi veri forti scontri con la polizia. Puis, je pense qu'on avait oublié de mentionner, mais le 20 avril, il y a eu une émeute aussi pour un salon du Plan Nord, qui est le principal projet que le gouvernement du Québec essaie de pousser actuellement, dans le fond, la dévastation de nos ressources forestière puis minière. Un'altra cosa fondamentale da sottolineare è il fatto che il 20 aprile c'è stata un altro forte scontro con la polizia, una forte repressione da parte del governo, perché gli studenti hanno manifestato contro il Piano Nord, che è un piano di devastazione delle risorse naturali del Quebec, di socializzazione delle spese e privatizzazione dei profitti. E in quell'occasione studenti e polizia si sono confrontati in maniera assai violenta. Dunque, dopo il 20 aprile, 4 maggio Victoriaville, c'è stato tutto un mese di ricorso ai tribunali per il ritorno forzato in classe, finché arriviamo alla legge 78. Finalement, la loi 78, c'est une atteinte au droit de manifester, au droit d'association, puis à la liberté d'expression. La legge 78 varata il 18 maggio è un vero e proprio attacco al diritto di manifestare, alla libertà di espressione e alla libertà di associarsi. Se tu inciti alla disobbedienza civile o tu stesso compi degli atti di disobbedienza civile, puoi avere delle multe che vanno fino a $125,000. Ci sono tutta una serie di disposizioni, tra cui quella di non poter manifestare all'interno delle università e in un perimetro inferiore a 50 metri dalle università, e tutta un'altra serie di disposizioni che in qualche modo danno carta bianca alla polizia e al governo affinché il movimento si spenga. La legge 78, la legge speciale 78, ha avuto numerose critiche, non soltanto da parte del movimento. Ci sono una serie di giuristi che l'hanno dichiarata incostituzionale, c'è addirittura l'ONU che è intervenuta dichiarando la legge pericolosa, e anche Amnesty International ha preso parola contro questa legge. Puis les gens dans la rue, ils s'en foutent de la loi 78, ils vont prendre les amendes, ils vont continuer à manifester. Puis c'est ce qu'on a vu dans les dernières semaines avec les arrestations massives. Il y a un soir qui ont arrêté 700 personnes. Ma la gente in strada se ne frega della legge e ha adottato ormai in maniera generalizzata delle pratiche di disobbedienza, e vanno comunque strada a manifestare in continuazione, e ci sono state numerosi arresti, tra cui una sera circa 700. In realtà la polizia non ha neanche applicato la legge, se lo ha fatto solo parzialmente, e non vengono applicate le disposizioni che il governo ha previsto sulle multe, probabilmente perché la polizia stessa ha paura che la legge venga dichiarata illegittima successivamente. Dagli anni 60-70 il governo ha sempre riconosciuto gli scioperi studenteschi. Et maintenant, avec la loi 78, c'est la première fois qu'on légifère et qu'on n'a plus le droit de lever les cours, même quand les assos étudiantes ont voté une grève. Adesso invece con la legge 78 il movimento non viene riconosciuto, non si ha più diritto di dichiarare uno sciopero studentesco, anche se prima storicamente qui in Quebec democraticamente, come dire, accettato. La legge in un qualche modo è un tentativo di spegnere qualsiasi sorta di contestazione, in particolare il Plan Nord, come si diceva prima, il Piano Nord, ma è difficile scoraggiare migliaia di studenti che si sono ormai radicalizzati e che si sono fatti caricare in maniera illegittima dalla polizia. Ci sono però diverse conseguenze dovute alla repressione, in particolare molti compagni e compagne sono hanno delle restrizioni della libertà, non possono entrare dentro la città, oppure devono firmare, insomma, in caserma, o devono andare a vivere con i propri familiari, cioè c'è un vero e proprio attacco alla libertà dell'individuo. E anche la prima volta che la legge antiterrorismo, che è stata varata qui in Canada dopo l'11 settembre, viene utilizzata. Ed è strano che venga utilizzata contro degli studenti e delle studentesse, che in realtà le cui azioni stanno all'interno di uno sciopero studentesco, che difficilmente possono essere riconosciute come degli atti terroristici. C'è un modo un po' anche anarchico di vivere lo sciopero e la mobilizzazione adesso. Sono fiorite tutta una serie di assemblee di quartiere nella città di Montréal, che danno quindi voce al movimento in maniera spontanea e autogestita. Il movimento delle pentole, diciamo che il movimento si è rinnovato con la legge 78, e il movimento ha risposto in maniera creativa, riprendendo una forma di manifestazione che in Cile era adottata negli anni 80 contro la dittatura di Pinochet. In Cile dalle 8 alle 8 e un quarto si usciva fuori di casa e si batteva con una cucchiaia di legno su delle pentolacce che si trovavano in casa. Stessa cosa i Quebecois hanno ripreso questa forma di lotta, e si scende in strada con le pentole. Ma Marianne quello che sottolineava è che questo spontanismo del movimento delle pentole, il fatto che qualsiasi cittadino e cittadina alle 8 esca di casa, batta su una pentola, ha fatto in modo che ci fossero delle relazioni tra vicini di casa, o semplicemente scendendo in strada la gente si riconosceva attraverso il fatto che stavano battendo su delle pentole, per cui ha creato in maniera spontanea, totalmente spontanea e autogestita, una forma di espressione della propria delle proprie idee assolutamente originale e creativa. Puis il y a une disposition dans la loi 78 qui réprime les gens qui organisent des manifestations. C'est tellement beau parce que c'est pas personne qui l'organise, les gens ils sentent, puis à chaque soir ils se rassemblent. Ça c'est dangereux. La legge 78, la legge speciale vieta qualsiasi forma di organizzazione delle manifestazioni, ma attraverso il movimento delle pentole in realtà le manifestazioni sono assolutamente spontanee. È una moltitudine di pentole che esce in strada e si incontra. E beh, ça fait aussi 40 soirs de manif de soir spontanée aussi. E inoltre oggi inauguriamo la 40ª edizione delle manifestazioni serali. E quindi è da 40 sere che ci sono delle manifestazioni che superano quasi sempre le 10.000 unità. Nelle ultime serate ci sono state delle arresti di massa che vanno dalle 300 alle 600, dai 300 ai 600 arresti. Non ogni sera, ma ci sono stati dei giorni intensi. La CLAS, quindi la coalizione allargata delle associazioni studentesche sindacali, aveva un fondo per un fondo legale che serviva per questo tipo di occasione, ovvero per gli arresti, e ci sono stati anche una serie di donazioni libere da parte di alcune associazioni di Vancouver e di Toronto. Quindi sì, c'è un fondo legale per la sicurezza del manifestante. Si sta organizzando un fondo legale per la sicurezza del manifestante contro la legge 78. Le conseguenze più gravi si stanno in realtà ancora aspettando, in particolare gli arresti di Victoriaville, di cui si sapranno i risultati quest'estate, e che insomma, lì sarà l'elemento più fondamentale, insomma. E in particolare ci sono anche una serie di ragazzi e ragazze che sono stati arrestati più volte e quindi, essendo recidivi, possono essere incriminati, insomma, o comunque accusati per dei crimini più gravi. Allora, mille grazie a Davide per i suoi grandi sforzi da interprete, e adesso riprenderà Sandra con la domanda che concerne il livello di solidarietà mostratasi dal resto del Canada e anche da oltre verso il movimento studentesco. Grazie Sandra. Quindi Marianne stava dicendo che non sa veramente se ci sono tante associazioni che appoggiano il movimento, sa che ci sono qualche associazione sindacale che lo fanno, e in particolare le associazioni studentesche che comunque appoggiano di più tutto il movimento e danno anche dei fondi. Quindi dice che ci sono, Bruno stava dicendo che ci sono, sa che ci sono delle associazioni a Toronto che prendono posizione riguardo a quel movimento e alla manifestazione, e sa anche che ci sta un'associazione, una federazione canadese per gli studenti, non sa più bene qual è il nome, però sa che esiste, insomma, esistono delle federazioni e delle associazioni, ma non c'è niente di più, a quanto pare non c'è veramente molta informazione su tutti questi sostegni che ci possono essere in Canada. Bruno stava dicendo che la legge 78 ha allargato il movimento, anche la repressione in qualche modo l'ha allargato anche lui, cioè il movimento è diventato più, cioè è diventato maggiore, insomma, c'è stato una più grande un numero di manifestanti. Quindi siccome la legge 78 e la repressione lo hanno allargato un po', allargato tanto diciamo il movimento, ci sono delle persone che cercano anche di ritornare al movimento iniziale e quindi di militare per i primi, diciamo, le prime rivendicazioni che hanno, in quale era nato il movimento. Comunque c'è comunque un fondo, tutto ciò si basa su un fondo anticapitalista, antiliberale. Quindi Marianne diceva che da lunedì ad oggi ce ne sono state diverse negoziazioni, e queste negoziazioni alla fine hanno portato che, quindi in pratica non ci sono proprio uscite le negoziazioni, perché le proposte fatte dai rappresentanti dell'associazione non sono accettate dal governo, quindi non sembra che ci sia veramente una soluzione, e quindi si continua a manifestare. C'est plus grave que des négociations à propos de la hausse des frais pour comme calmer la grogne au Québec, tant qu'à moi. Ok, quindi lei dice che la crisi in Quebec è più larga e più grande della manifestazione contro l'aumento delle tasse universitarie. Il movimento rappresenta in qualche parte anche l'opinione, insomma, dei quebecesi che riguardo a una crisi che è più generale, che va al di là dell'aumento delle tasse universitarie. Nella classe è da tanto che ci sono delle donne, un movimento di donne che propongono fanno delle proposizioni, che intervengono. E aussi dans le milieu militant anticapitaliste. La critique féministe est aussi très présente. Et anche nel mezzo del militante anticapitaliste la critica femminista è molto presente. Quindi dall'inizio dello sciopero ci sono delle problematiche femministe che intervengono insomma nel movimento e che mettono in gioco certe problematiche femministe e anche del movimento queer che rimette in questione la questione del genere. Grazie Sandra, e con questo si conclude il rapporto, la trasmissione dedicata al movimento studentesco e lo sciopero che va ancora avanti nel Quebec. Ringrazio a tutte e a tutti per l'ascolto e alla prossima.